Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ragazzine di 15-16 anni si prostituivano per una dose di eroina, erano disposte a vendersi. Alcune delle persone coinvolte nell'operazione pagavano di più pur di incontrare ragazze alla prima esperienza sessuale. Lui è un settantenne, lei è una sedicenne, figlia di immigrati che vive nell'Interland trevigiano. L'ha avvicinata lungo la strada e dapprima ha carpito la sua amicizia, poi ha iniziato ad avere con lei rapporti sessuali. Penso che abbiamo parlato moltissime volte di prostituzione infantile, di baby squillo, di giri loschi nelle migliori città d'Italia, con la migliore società d'Italia. Però ci siamo sempre limitati a confezionare e riflettere sui fatti di cronaca, accogliendo il disagio, l'indignazione di tante mamme, di tanti padri, di tante brave persone che dicono: ah, queste cose perché succedono, perché non è più il mondo di una volta, perché c'è internet, perché le persone non hanno più valori. Però ancora nessuno ha mai messo il dito fino in fondo su quelli che di tutto questo complesso e variegato mondo sono gli utilizzatori finali. Sono le persone che realmente sono la causa scatenante principale di questo mercato, ma molte volte, vuoi perché alla fine ci sono degli strumenti processuali che gli permettono di uscire abbastanza tranquillamente, perché sono persone che molte volte rappresentano aspetti e parti privilegiate della società, quindi a meno che non abbiano nomi importanti riescono a fuggire dalle maglie della pubblicità, e poi perché in fondo nessuno importa veramente chi siano i puttanieri. Perché? Perché in fondo gli italiani tutti lo sono un po' puttanieri, tutti cedono comunque all'idea che in effetti in quello che sia un mercimonio sessuale, dove molte volte quando diciamo la parte passiva è così indifesa, è così priva di strumenti di poter determinare quello che sta facendo, molte volte spinta dal bisogno, non ha assolutamente modo di essere altro che una facile preda e soprattutto una persona sottomessa, una persona da dominare. È uscito un libro in questi giorni, Utilizzatori finali, proprio dedicato a questa categoria umana, Sesso, potere e sentimenti, il lato nascosto degli italiani, edizioni Chiare Lettere. L'autore è Riccardo Iacona. Riccardo Iacona, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca e buongiorno a tutti voi. Siamo colleghi da almeno 30 anni, quindi ci conosciamo bene. È un giornalista, lo sapete bene, autore e conduttore di Presa Diretta, programma di Rai 3, e ha scritto vari libri sempre per Chiare Lettere su questi temi. Questo, diciamo, è un completamento di altre inchieste che ha fatto. Questo tuo libro inchiesta parte da un indicatore molto, molto sensibile e anche molto impietoso di quello che è l'atteggiamento degli italiani nei confronti del sesso mercenario. Premetto, non ho nessun pregiudizio di tipo moralista, semplicemente osservo. E tu parti con l'analisi di Gnocca Travel. Gnocca Travel è una sorta di trip advisor dei puttanieri italiani, dove vengono selezionate le aree dove è più facile, più anche conveniente praticare sesso mercenario. Le persone vanno, provano, fanno prove su strada, descrivono dando le dritte. È interessante allo stesso tempo abbastanza fastidioso da vedere, che si scelgono naturalmente i paesi più poveri. Si dice: lo stipendio medio in questo paese è tale, quindi potete lavorare sulla tariffa e abbassarla fino a questo punto. Oppure quando vanno in appartamenti ci sono le cinesi, le descrivono con le facce da cani, secche, osse, ossute, ci sono montato sopra proprio perché ormai non potevo buttare via i soldi, e via dicendo. Ecco, perché hai iniziato proprio a toccare quelli che poi sono argomenti di cronaca che tutti conosciamo, partendo da questo indicatore così basso ma in realtà così efficace nel descrivere l'atteggiamento? Beh, perché quel sito lì è il sito, diciamo, dove si svolge la narrazione dei cacciatori, dei clienti. Quindi se tu ci entri dentro e ci perdi un po' di tempo ed entri dentro quello che scrivono i clienti, le recensioni, i meccanismi attraverso i quali si passano le storie, e hai la possibilità di diciamo, di entrare nel lessico dei puttanieri, e le parole sono importanti perché ti dicono un po' qual è lo scambio simbolico che avviene, perché questi uomini sprecano così tanti soldi, così tanto tempo della loro vita, anche diciamo a rischio, perché molti di loro sono sposati, fidanzati e così via, quindi sono operazioni anche non... Molti hanno la macchina aziendale con il navigatore che segna dove vanno, quindi dice, non posso allontanarmi più di tanto perché dopo l'azienda se ne accorge, gli altri dicono affitta una macchina così almeno ci puoi andare. Ecco, nel linguaggio che loro utilizzano e che li accomuna tutti, non importa quale che sia la categoria, lì qualche risposta la trovi. Io mi sono convinto anche dai loro crudi racconti, poi li abbiamo inseguiti fino in Thailandia, li abbiamo seguiti mentre andavano in un bordello di lusso, diciamo al di là del confine in Austria, mi sono convinto che questi Austria e Svizzera vedo sono molto frequentati. Sì, frequentatissimi, naturalmente hanno riempito i confini di bordelli proprio perché c'è questo consumo di massa, no? I numeri dei clienti italiani non sono bassi, sono alti, si parla di 2,5 milioni di persone. Io penso che loro non vanno a cercare, non è la prestazione sessuale in sé che cercano, non cercano dalla prostituta quello che la moglie o la fidanzata non gli fa. La cosa che li eccita di più, secondo me, è l'esercizio del potere, cioè il fatto di poter entrare dentro un supermarket del sesso, di potersi comprare quel pezzo di corpo della donna, e ce lo segnala proprio il lessico che loro utilizzano, il fatto che in tutta questa le sigle che servono a sezionare il corpo della donna per la parte che serve per la prestazione sessuale. Sì, c'è tutta un'anatomia legata alle possibilità di prestazione, questa gli puoi fare questo, questa gli puoi fare quell'altro, ti fa questo ma non lo fa bene. Bravo, è di una metafora pazzesca, se pensi questo corpo messo sul bancone da macellaio, spezzato in tante parti, io ne consumo una parte. Naturalmente in questa galleria c'è pure la categoria minorenni, ma tu come pensi del resto che uno possa, diciamo, avere il pelo sullo stomaco per entrare dentro un appartamento a Roma e fare sesso con una quattordicenne che potrebbe essere tua figlia? Lo puoi fare solo perché non è più una persona quella lì, quello è un pezzo che fa parte della categoria minore, ti posso dire una cosa, valore aggiunto, e mi consumo anche quella. Proprio sul cinismo, non si fermano di fronte a nulla. Una volta scavalcato il fosso di questo tipo di attività o entrato in questo giro, hai veramente pelo sullo stomaco. 10 minuti fa, guardando Gnocca Travel, e ci sto per scrivere un pezzo che pubblicherò appena finita questa trasmissione, un signore entra in una provincia italiana, va per qualche giorno, è messo lì per lavoro, lo hanno mandato lì, e si lamenta che gli danno tutte dritte brutte, va da due cinesi orribili, trova un'altra ucraina non all'altezza delle sue richieste, poi finalmente gli danno la dritta giusta. Una bella signora in un bel appartamento molto ampio entra, e cioè, finalmente con possibilità di compiere congiunzioni fetish, dice. Poi si rende conto che in questa casa dignitosa, bella, anzi così, ci sono due ragazzi handicappati psichici, figli della signora, adolescenti. La madre deve prostituirsi per mantenere questi due figli handicappati psichici. E a quel punto lui dice, beh, senti, quei ragazzi lì che stanno nella stanza vicino, anche se non capivano niente, non me la sono sentita, però sono proprio sfigato. Vai a trovare, a vedere delle pieghe nascoste del nostro paese, degli universi terrificanti che non te ne rendi conto. L'occhio cinico del puttaniere rivela delle realtà che in realtà non avremmo altri indicatori per capirle. Bravo, per sono proprio delle sonde messe, diciamo, sotto, in una parte che è molto nascosta, ma è nascosta non perché ci si vergogna, un po' come dicevi tu nell'anticipazione, è nascosta perché non ha bisogno di andare in emersione. In fondo non è un reato andare a prostitute, un cliente ci dice, questo virgolettato secondo me strepitoso, da una parte ci sono le donne, da una parte ci sono i clienti, che cosa ci serve di più? E perché sostanzialmente è diventato un comportamento di massa e molto accettato. In fondo nella vicenda strepitosa che è stata seguita, diciamo, appassionatamente da milioni di uomini italiani, del nostro ex presidente attivissimo del Consiglio, in tutta quella vicenda lì, ma quanti erano i milioni di italiani che pensavano, guarda, io avrei fatto la stessa cosa se solo avessi avuto il potere e le possibilità che aveva Berlusconi. Insomma, ecco, andare questa seconda dimensione, questa seconda ginnastica dell'uomo italiano, italiano che trova lì quello che non può chiedere alla fidanzata, può esercitare quel potere solo lì perché non lo può esercitare in una società dove prima o poi, comunque, anche se è sessualmente libera, anche se vuoi fare l'amore la prima volta che incontri una ragazza, gli devi comunque dire ciao, come ti chiami, uno scambio ci vuole. Ecco, questa roba qui sta diventando una roba di massa. Ridurre a livello zero tutto l'impegno, tutta la necessità, diciamo, perché devo portare una cena, devo portarla fuori, offrirgli il vino, una bella cena, totale spasso. Ma loro sono totalmente disinteressati a capire chi c'hanno davanti. Guarda che poi quando c'entri dentro queste fabbriche del sesso, come abbiamo fatto noi in quella, nel Welcome che sta al confine con l'Austria, cioè lì si immaginano supplì, cioè tutta una, la prestazione è una fabbrica che gira vorticosamente, si paga la mezz'ora e quindi queste prostitute devono riuscire a collezionare più mezz'ore, questi uomini che sono abusanti, cioè nel senso è un po' come i tossici, stanno lì, se ne fanno una, poi non basta, ce ne vuole la seconda, poi la terza, poi si fa il conteggio alla fine di quante relazioni con diverse donne. Ecco, la frase che loro utilizzano, andiamo a fare il pieno, ma non è proprio, diciamo, l'atteggiamento di un tossico. In effetti poi dopo, alla fine, dopo questa performance, il nostro Federico Ruffo gli chiede: ma come vi sentite? Ecco, adesso sto bene, no? Cioè questa roba qui è una roba tosta, dura, ecco, diciamo che richiede la annullazione totale della persona, l'annullamento totale della persona che hai davanti. 800... Non c'è più un nome e un cognome, cioè veramente un oggetto da consumare. 800 24 00 24, già abbiamo qualche persona al telefono. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Io facevo una riflessione. Voi usate il termine puttanieri. State parlando appunto di un fenomeno. In realtà, se tu lo dici agli uomini, si offendono. Perché si offendono gli uomini se gli dici puttanieri? Sì, perché chiaramente... Ma è sicura? C'è... No, l'ho provato già con alcuni amici e si risentono di questa cosa, perché in realtà è più accettabile il termine puttana. Anche in riferimento a una donna che praticamente... Guardi, però c'è anche un'accezione giocosa, dire un uomo puttaniere vuol dire un tomber de femme, non sempre è legato alla prostituzione vera e propria, ci sono varie... Certo, gli uomini si vergognano di fronte a una donna e dire vanno a puttane, ma tra uomini le assicuro che c'è il vanto delle tacche a Winchester, anche se sono tacche a pagamento. Ma probabilmente tra di loro no, ma quando io l'ho fatto verso alcuni amici, no, dicendo tu definisci una donna puttana solo perché magari cede la prima volta che la definisci così, in realtà loro si risentono, perché no, non è vero assolutamente, esistono cioè c'è un sessismo negativo nei confronti delle donne, per cui è più accettabile il termine puttana che non puttaniere da una donna verso un uomo, è diverso, no? Cioè è proprio un atteggiamento diverso. Pronto? Sì, ecco, sentiamo un attimo. Sì, abbiamo capito. Roberto, devi puntualizzare qualcosa. Buongiorno. No, volevo fare solamente una comunicazione di servizio, permesso che ho interrotto l'ascolto 5 minuti fa perché sono dovuto scendere dall'auto. Sì, sì. Allora, il sito Gnocca Travel di cui parlavate, o il suo spin-off che è Gnocca Forum, parlo del sito Gnocca Forum in quanto l'ho utilizzato. Innanzitutto non ci sono assolutamente situazioni di prostituzione minorile, anzi è lo stesso sito che le banna. Ma tra l'altro non vorrei... Oddio, quando dicono andiamo a Bangkok... A cercare... No, Bangkok potrebbe essere eventualmente Gnocca Travel, però siccome sì. Lei mi parlava anche di gente che va, diciamo così, a puttana, visto che uso il termine che tanto è stato utilizzato. No, ma io apprezzo la sua puntualizzazione in quanto probabilmente necessitante di chiarezza, ma io parlavo di Gnocca Travel, su Gnocca Travel, quando dicono andiamo a Bangkok, troviamo ragazze giovani, non scrivono minorenni perché naturalmente sanno che è un reato. Qual è il punto, diciamo, della sua rettifica? Cosa vuol dire? Nel senso che siccome l'avevo sentita parlare anche di prostituzione in Austria o in Svizzera, sì. Dove è assolutamente legale, quindi è impossibile che ci siano minorenni. Nessuno ha detto che in Austria ci sono minorenni, sono casini lussuosissimi dove vanno italiani, ma non c'è nulla di strano. Sì, dove vanno italiani, infatti, ma non c'è nulla di male. Ma nessuno ha detto ci sia qualcosa di male, noi facciamo un'analisi. Possiamo dire, è lecito dire che ci fa riflettere il fatto che persone vadano con l'idea compulsiva di farsi più donne possibile e poi sentono meglio, buon per loro. Non dico nulla, ma la sua puntualizzazione rivela un po' di coda di paglia. Ci fermiamo però un istante, dobbiamo dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo con Riccardo Iacono. Melog, cronache meridiane. I clienti che frequentavano il mini appartamento di Viale Parioli erano disposti a sborsare 300 euro per un incontro con una ragazzina, tariffa che saliva a 500 se l'incontro era particolare, lui il cliente e le due liceali di 15 e 16 anni. Qualcuno si è sentito chiedere anche 5.000 euro per un weekend a Ponza o a Cannes, offerta poi rifiutata. 800 24 00 24, stiamo parlando di utilizzatori finali, il libro di Riccardo Iacona per Chiare Lettere, Sesso, Potere e Sentimenti, il lato nascosto degli italiani. Ora, paradossalmente questa mattina mi sto beccando la nomea di moralista, ma vi assicuro il mio non è un giudizio tipo morale, vorrei semplicemente capire meglio quella che è la psicologia dell'italiano medio puttaniere. Questa mattina si è sentito chiamato in causa, mi stanno telefonando tantissimi, facendo i distinguo, ponendo quelli che sono appunto i se e i ma rispetto a questa che è un'attività basata, come mi dicono molti, su una libera accettazione di un contratto, ma non credo che questo possa essere tale quando si parla di una ragazzina, quando si parla di una persona che lo fa per estremo bisogno, per estrema necessità di sopravvivenza. E nemmeno credo che Riccardo Iacona, per quello che mi ricordo, abbia mai avuto la vocazione del chierichetto. No, Riccardo, per carità, non sono bacchettone, sono anti-proibizionista. Tra l'altro nel libro noi segnaliamo un esperimento molto interessante che si fa in Olanda, che tutti sanno essere un paese molto libero dal punto di vista dei costumi sessuali, dove però si fa l'educazione sessuale e sentimentale nelle scuole, e in 10 anni sono riusciti a ridurre il numero delle ragazzine, per esempio mamme, e i ragazzini hanno uno spazio dove possono narrare anche la loro sessualità davanti a delle persone competenti. Ecco, un caso come quello di Roma magari nelle scuole olandesi sarebbe stato intercettato prima. Qui non si tratta di fare i bacchettoni, si tratta però di mettere un po' il naso dentro un comportamento di massa, e questa roba qui secondo me è molto interessante a disegnare meglio il paesaggio italiano, il paesaggio dove si muove anche la donna italiana, no? Oggi è il 26 novembre, siamo a un giorno da questa triste ricorrenza in cui dobbiamo ricordare ogni volta l'endemica violenza di cui le donne italiane sono oggetto. Bene, insomma, queste donne che vivono in un paese considerato ostile, però i loro corpi, diciamo, con questi corpi ci siamo foderati questo loro inferno, cioè dalla mattina alla sera ci abbiamo pezzi di bocche, mani, naso, corpi interi utilizzati ad ogni scopo fino all'ultima pubblicità prima di andare a letto, e questo pure vorrà dire qualcosa, diciamo, a disegnare. Ma secondo me sai, la differenza è proprio dell'aspetto compulsivo. Chi è abituato in maniera compulsiva a prendere, comprare, pagare su questa sorta di catalogo IKEA delle prestazioni sessuali, chiaramente poi nel rapporto quotidiano con le donne è un rapporto falsato, diversificato, non tollera che la donna abbia un'autonomia, che una donna ponga dei limiti, che una donna possa ritrarsi o non accettare magari un incontro, perché quando è abituato a pagarle tutte. Sentiamo qualche ascoltatore. Renato, buongiorno. Buongiorno, io riporto la mia esperienza di utente che ha consumato qualche giorno fa in un appartamento di San Giovanni con una venezuelana, la quale intervistata da me riferiva di non essere sfruttata da nessuno, ma di guadagnare delle cifre tali da convincerla a fare quel lavoro piuttosto che la commessa, perché il ritratto che voi fate del cliente, quantomeno italiano, non corrisponde a verità. Secondo lei sono tutti come lei, non esistono questi di cui parla Iacono. Guardi, chi va con le ragazzine non esiste. Allora, la forbice tra quelli come me e quelli che vanno con ragazzine è ampia, non è così assolutamente. Poi, sinceramente, l'autore del libro, no, si occupa della prostituzione di strada, ma non si occupa della prostituzione che esiste all'interno degli studi televisivi, perché la Rai stessa è più o meno un bordello, perché comunque le vallettine, le, no, non sono forse loro in accordo, cioè voglio dire, non è forse anche quella una forma di prostituzione? Guardi, io ho tutte le lecite e giustificabili prese di distanza nei confronti della RAI, ma nella RAI non credo che si istighi alla prostituzione. Può essere qualche ragazzetta andrà con qualche produttore come in qualsiasi ambiente televisivo, ma lei non cerchi giustificazioni. Scusi, lei va con una prostituta adulta, consenziente, che fa questo lavoro, non c'è niente di strano, ma non dica che tutto il mondo è come lei. È buon per lei, se lei ha la sua capacità relazionale basata sul dover pagare una donna, la paghi, altri magari le trovano senza bisogno di pagare, ognuno si muove come meglio crede. Davide. Sì, salve, buongiorno. Ecco, io mi riallaccio un pochettino anche all'ascoltatore che ha telefonato prima, no? E che effettivamente voglio cogliere anche sempre l'aspetto positivo di chi eventualmente frequenta le prostitute. Premesso, io ho frequentato delle prostitute, le posso dire che comunque un mio collega di lavoro, chiaramente logicamente è d'obbligo la privacy, un mio collega di lavoro un po' più giovane di me, perché io sono un cinquantenne, attenzione, ecco, un po' più giovane di me, ecco, ha trovato la donna della sua vita la moglie praticamente frequentando una prostituta, una rumena, va bene, è riuscito a toglierla, è riuscito a toglierla perché questa era sfruttata. Io ti salverò, è una trama classica da romanzo d'appendice. Si sono sposati, hanno due bambini e vivono a Verona. Lui l'ha conosciuto a Bolzano perché io telefono da Trento, lui l'ha conosciuto a Bolzano e si sono trasferiti. Sì, ma che lei mi faccia il quadrettino del santino del cliente che ha salvato la prostituta, mi sta bene, ma questo non può dare un colpo di spugna rispetto a tutto quello che ha scritto Iacona sul commercio turpe e scellerato di bambine. Riccardo. Ma sì, insomma, c'è la prostituzione minorile che è una nicchia che sta diventando sempre più grande a seconda, e ce lo dicono i fatti di cronaca. Adesso c'è un'inchiesta a Roma che coinvolge un centinaio di ragazzine che sta facendo la procura di Roma, cioè c'è un esercito. Ma perché sui clienti sa sempre così poco, Riccardo? Alla fine, a parte il poveretto del marito della Mussolini che è stato iper sput, poveretto fra virgolette, perché solo lui, degli altri non si sa nulla. Ma perché appunto poi dopo avvengono delle procedure di patteggiamento e si cerca di, diciamo, anche di salvaguardare la privacy di queste persone. Quando escono sui giornali, poi ogni tanto se ne fa il nome, poi queste storie, ripeto, rientrano in immersione. Ma comunque per me è interessante anche il comportamento, cioè lo so bene che ci sono centinaia di migliaia, anzi forse milioni di utilizzatori finali che magari con la ragazzina non ci andrebbero mai, no? Che si rivolgono al mercato, diciamo, dalla diciottenne in su. È comunque interessante andare a capire questi perché lo fanno, no? Cioè, ripeto, in un paese che è mediamente sessualmente libero, tanto più che spesso sono finanziati, spesso sono giovani, cioè non è che a prostitute ci vanno gli infelici. No, la cosa interessante del libro di Iacona, a cui salutiamo, è proprio questo, che rispetto alla tradizione ci vanno perché vogliono un rapporto vessatorio sulla donna, non perché possono far cose che la moglie gli fa fare. Oggi le mogli fanno fare di tutto. Grazie Riccardo Iacona, a domani.